Componimento 145esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Ponmi ove il sole uccide i fiori e l'erba, o dove vince lui il ghiaccio e la neve. Ponmi ove il carro suo temprato e leve, e dov'è chi ce l rende o chi ce l serba. Ponmi in umil fortuna od in superba, al dolce aere sereno, al fosco e greve. Ponmi alla notte, al di lungo ed al breve, alla matura etate od alla acerba. Ponmi in cielo od in terra od in abisso, in alto poggio, in valle ima e palustre, libero spirto o da suoi membri affisso. Ponmi con fama oscura o con illustre, sarò qual fui, vivrò com'io son visso, continuando il mio sospir trilustre. Fine del componimento.